fiducia, so, e cosa vuoi fare? Non ci chi vuoi capare, che è capare? È tutto uscito il primo di là. Ma una cosa assurda, ma ormai gli ho detto quindi 30 euro. Sì. Ciao Giulia. Sono contento, sono contento. Cioè, cazzo, proprio voglio trovare un microfono con l'eco, vai. Chiedo a qualcuno, a che vecchio CB se può buscare, ma è difficile. Ma da certo, professor, dimmi anche se ha avuto un suo internet, ma se sta bene. Vediamo, faccio qualcosa. Aspetta. Allora. Poi c'è la ciappi, 70, 80 euro, 31 euro, poi mi trovo introvabile. Fatto che dicevo io, ho fatto la poco, sono a 2, sto facendo... Io affanculo. Allora, microfono. CM300. Mi serve. Un cazzo come. Microfono Z. È difficile trovarle. Come a 5, vai a 5.